Punto di Stefano Folli. Può darsi che la protesta dei cosiddetti forconi si esaurisca come già avvenuto in passato, ma non è il caso di farci troppo affidamento, almeno da parte di chi deve garantire l'ordine pubblico. Giusto il diritto di manifestare, purché non si chiudano gli occhi su quello che è accaduto ieri, che potrebbe ripetersi. C'è chi scende in piazza solo per manifestare il proprio disagio, certo, ma tanti tra questi forconi seguono un istinto alla violenza cieca e alla pura intolleranza. Una furia senza altro disegno che non sia la disarticolazione di quel che resta dello Stato italiano. Sembra quasi di risentire un eco di quella che fu in Cile la protesta degli autotrasportatori che provocò la paralisi del governo Allende e il colpo di Stato di Pinochet. È uno sfondo macabro a cui devono riflettere Renzi e Letta, ieri così cordiali l'uno con l'altro. È bene che si stringa un patto fra i due giovanotti della politica italiana, purché sia davvero un patto all'insegna del fare. Dalla strada giungono rumori sinistri.